In sostanza la critica di Bill Gates è un po' in realtà riecheggia le critiche che tutto il mondo progressista americano ha rivolto a questo piano di riforma fiscale di Donald Trump, cioè fondamentalmente il fatto che siccome si tagliano le tasse sul reddito d'impresa e si facilita in qualche modo il rientro dei capitali all'estero con diciamo una diminuzione delle aliquote sul reddito personale in questo senso e sulle aliquote relative ai cosiddetti super profitti, in un certo senso si fa quello che un po' i repubblicani americani hanno spesso fatto nei momenti di stagnazione dell'economia, cioè quello di utilizzare la politica fiscale in deficit, ma naturalmente a vantaggio dei più ricchi, con l'idea che la vecchia idea della trickle-down economics, secondo cui i benefici dati ai ricchi poi sarebbero sarebbero colati giù verso le classi medie e le classi più povere. Naturalmente gli esempi storici non mancano, c'è ad esempio Reagan che nonostante insomma è famoso per aver detto che lo Stato, il governo è il problema e non la soluzione, ha di fatto realizzato degli enormi disavanzi pubblici soprattutto a scopo militare, e anche il piano di Trump prevede un ampio sostegno alla spesa militare e il 90% probabilmente della spesa in più che viene autorizzata da questo piano non è spesa diciamo sociale, ma anzi è spesa militare. La spesa sociale viene anzi tagliata per venire incontro alle esigenze dei repubblicani, che altrimenti avrebbero difficilmente votato loro stessi il piano. E quindi le critiche di Gates un po' sono queste, cioè il fatto che si tagliano le tasse ai ricchi e non si tagliano le tasse ai poveri. Ora, viene da sorridere un po' perché comunque sono davvero tantissime le notizie su Microsoft, che un tempo Bill Gates presiedeva, ma su tutto il comparto in generale delle grandi multinazionali del tech, che ci dicono come queste multinazionali di fatto pratichino l'elusione fiscale, lo fanno sempre in maniera naturalmente legalizzata, sfruttando quelle che sono le asimmetrie nei sistemi fiscali nazionali, e lo fanno da sempre, lo fanno da anni. Ad esempio il Sunday Times ha dichiarato che fin dal 2011 Microsoft ha eluso tasse nel Regno Unito, così come ci sono moltissime altre testimonianze, non solo di Microsoft ma anche di Apple, di Google, tutto il comparto, come dire, delle multinazionali. Quindi insomma, che Bill Gates si erga un po' a supremo giustiziere della working class americana fa davvero sorridere. Ma il punto sollevato è proprio questo, cioè che in un momento in cui l'economia americana sembra, perché tendenzialmente questa è l'opinione prevalente degli investitori della Federal Reserve, sembra forte, ma inizia a dare i primi segni di rallentamento. I dati di dicembre e di gennaio ci parlano di un mercato del lavoro che praticamente è quasi al punto di aver assorbito diciamo tutta l'occupazione possibile, perché i salari cominciano a crescere, ma di converso in realtà la spesa al consumo diminuisce a gennaio del 2018. Non sembra che sia così forte e sostenuta nel corso del tempo, gli investimenti privati non aumentano molto, e quindi come dire, si segnalavano già dei segni di debolezza dell'economia americana. E naturalmente questo stimolo pesante che proviene dalla riforma di Trump sicuramente farà in modo da far crescere il PIL, almeno in termini nominali, cioè in termini di dollari. Poi bisognerà vedere se queste misure poi daranno realmente uno stimolo agli investimenti. Gli esempi storici sempre relativi agli Stati Uniti d'America non sono positivi in questo senso, nel senso che, come sappiamo ormai, insomma, la letteratura su questo è molto ampia, i progetti di questo tipo che tagliano le tasse alle classi che hanno una minore propensione al consumo sono destinati a non funzionare tanto quanto invece quei progetti che o tagliano le tasse o aumentano la spesa in favore delle classi che invece consumano di più, una parte maggiore del proprio reddito, quindi le classi medie e le working classes. Quindi, c'è da parte di Donald Trump diciamo l'esigenza di mostrarsi come alla fine un vincente che dà sostegno all'esercito, che taglia le tasse comunque alla classe dirigente diciamo, e alla classe di coloro che nella retorica, un po' nell'immaginario repubblicano, ma non soltanto repubblicano, perché diciamo di questi discorsi se ne sente parlare anche da noi, di coloro che creano lavoro in un certo senso. Bisognerà vedere come la Federal Reserve ad esempio reagirà rispetto a questa politica, perché la prima reazione dei mercati finanziari è stata quella di, da un lato, diciamo, allarmarsi per possibili ripercussioni future sulle finanze pubbliche americane della serie. Se oggi si aumenta il deficit, domani lo si dovrà ridurre. Naturalmente, come sappiamo, gli Stati Uniti non sono sottoposti agli stessi vincoli a cui sono sottoposti i paesi europei, per cui la possibilità che questo piano di Trump poi metta a repentaglio, diciamo, le finanze pubbliche americane è davvero nulla, ma la percezione degli utenti è un po' questa, e sicuramente c'è la percezione che questo piano sarà tale da aumentare l'inflazione, e per una classica, diciamo, aspettativa dei mercati, una maggiore inflazione rinforzerà l'aspettativa che la Federal Reserve alzi i suoi tassi di interesse. Ora, se non sarà così, naturalmente questo significa che molti degli investitori che in questo momento stanno prendendo posizione in questo senso, e lo stanno facendo di fatto anche tutti i maggiori fondi di investimento, quindi diciamo gran parte del mondo finanziario, beh, se non fosse così, chiaramente ci sarebbero tanti ad aver sbagliato direzione. Ecco, tu hai citato anche l'Europa e il nostro paese, e visto che siamo in campagna elettorale ti volevo chiedere quanto della riforma fiscale di Trump, come dire, ritrova, almeno a livello di filosofia di fondo, si ritrova ad esempio nelle proposte nostrane di flat tax. Sì, la cosa interessante è che le proposte nostrane di flat tax sono da un certo punto di vista ancora più inique rispetto alla riforma fiscale di Trump, nel senso che la flat tax di fatto, oltre al problema, diciamo, di problema naturalmente legato al contesto europeo, di causare un disavanzo che è stato stimato in più di 90 miliardi all'anno, che sarebbero impossibili da trovare a meno di aumentare il deficit, hanno il problema di ridurre enormemente il grado di progressività del sistema fiscale e di far sì che di fatto poi, siccome in Italia esistono anche tutta una serie di agevolazioni, detrazioni fiscali non progressive legate a certe categorie di reddito, comunque il 10% più ricco della popolazione in termini di persone fisiche si troverebbe probabilmente a pagare ancora meno della tassa ufficiale della flat tax, se ad esempio si beneficiano di contributi legati appunto a queste che vengono chiamate tax expenditures, cioè sono detrazioni fiscali non legate al reddito. Quindi di conseguenza con la flat tax il sistema fiscale italiano sarebbe di fatto ancora più regressivo di quello che ne risulterà, diciamo, dalla riforma fiscale di Trump. Naturalmente la filosofia che sta dietro a questa proposta è la stessa, cioè tagliamo le tasse ai più ricchi in modo tale che i più ricchi di fatto investiranno. E c'è in questo un problema economico molto semplice che abbiamo già in parte menzionato, cioè il fatto che per quanto noi tagliamo le tasse, possiamo tagliare le tasse a coloro che possono permettersi di investire, di fatto dal punto di vista dei consumi sarà impossibile generare lo stesso effetto per ogni euro di tasse tagliate che si genererebbe se spendessimo un euro in favore di chi consuma, va a fare la spesa tutti i giorni. C'è un esempio classico che è un imprenditore molto famoso per le sue posizioni particolarmente progressiste che si chiama Nick Hanauer, porta sempre, e cioè se tagliate le tasse a una persona come me, lui è un milionario, un investitore, un venture capitalist, è vero che io potrò investire, potrò utilizzarli per aprire nuove imprese, ma quanti tagli di capelli alla settimana potrò farmi e quanti tagli di capelli ad esempio potrebbero farsi 20 persone se ricevessero gli stessi soldi in più che ricevo io? Ecco, da questo punto di vista naturalmente è chiaro che un taglio alle tasse delle classi più abbienti non può assolutamente produrre gli stessi risultati.